santi solo a metà. Con questa vita non ci sto pari e camminiamo su due binari che non si incontrano. Storie in incognito sbiadite da incollare lì alla parete. Buttate via nella follia di una sequenza logica. Siamo treni coi nostri mille sogni infranti. Siamo santi solo a metà. Senso ama. Quanta fatica fine mese, rifare i conti con le spese e con le mie mani. Meno Dio qui è mai presente, e una bestemmia non cambia niente. Tanto sai, non scende mai dalla sua croce, resta là. Siamo treni coi nostri mille sogni infranti. Siamo santi solo a metà. Siamo treni, dimmi che vita è questa, sempre uguale, ma che senso ha? Ci mettiamo.